Visto che la Camera riaprirà effettivamente prima di quelle che erano le date, credo, fissate del pellegrinaggio, il pellegrinaggio si farà? Cioè, ci andrete? Sto cercando di, come ho detto ieri, a questo punto fissato questo, di anticiparlo, com'è naturale che sia, vedendo la disponibilità degli alberghi, la disponibilità del vettore aereo, e quindi certamente lo faremo anticipandolo e rispettando ovviamente il calendario che la Camera si è posta. Se posso farle una battuta, oggi alla riunione dei capigruppo ho detto, siccome io vado lì come vicepresidente, ma ero stato chiamato da tutti per chiarire questo equivoco, ho detto che si è costituito un altro gruppo, Pellegrini per la Libertà, no? E ho detto, però non sappiamo dove, siccome il pellegrino è itinerante, non sappiamo, sì, se metterlo nel centro-destra o nel centro-sinistra. Perché ci sono tutti i gruppi. Una roba, no, dell'altro, fra l'altro, mondo. Questo sì, perché davvero so che ci sono, chi è che viene? Livia Turco normalmente? Sì, ma tantissimi, Franceschini, tantissimi forse. Amici di centro-destra e centro-sinistra, sì. Labinetti, Livia Turco, Vaccaro del Partito Democratico, Donato Bruno del PDL, ma tanti amici che prima con Monsignor Fisichella, che è il, sì, cappellano della Camera, perché magari queste cose non si sa. Nella Camera dei Deputati c'è una cappella, c'è una chiesa, ogni mattina chi vuole, come me, prima di iniziare i propri lavori alle 8:30 va a messa, e quindi adesso con Monsignor Leuzzi c'è una vita di una piccola comunità che è libera ed è proposta a tutti. Veder rovinato, devo siete? Dire anche ha ragione, se era così i cittadini, sì, avevano ragione, non sto difendendomi, no? No, mi sarei così arrabbiato anch'io, cioè, ma com'è possibile? Quando ho letto quella cosa ho detto, ma com'è possibile? Non Senta, ma quanti siete? 170 ci dicono, no, il record questo, quest'anno? 170, guardi, siamo una sessantina di parlamentari e siccome appunto ci sembra molto bello poter fare questo gesto in questo momento anche con i propri familiari e con le proprie famiglie, sono, sì, alla fine il numero complessivo delle persone che partecipano è 150-160. Lei sta cercando di spostare, di anticipare il pellegrinaggio perché per vedere se è possibile con le date degli alberghi eccetera eccetera, altrimenti lo faremo in un'altra data, però lo faremo perché per noi è una cosa importante. Però se non dovessero esserci disponibilità per tutti per riorganizzarlo in questo poco tempo, come diceva lei, ci vuole tempo per organizzare eccetera eccetera, il pellegrinaggio quest'anno, in questa fase, in questo momento qua, potrebbe non essere fatto, potrebbe saltare. No, adesso sceglieremo certamente di farlo in un'altra data, in un altro periodo, ma noi abbiamo fatto, voglio dire, veramente siamo andati una volta a Lourdes tutti insieme, siamo andati a Santiago di Compostela, cioè andiamo, ci sembra bello che fuori dal, come si direbbe, fuori dall'orario di lavoro, no? Quando uno è nella propria azienda, fuori dall'orario di lavoro ci possano essere anche gesti di questo genere, tanto più per uno che fa politica, che dovrebbe, secondo me, essere un po' più educato al significato della politica.